È mercoledì 5 settembre, uno sguardo ai titoli intanto. Il Sole 24 Ore apre con il piano di fine legislatura, ecco tutte le misure in 4 mesi. Il cronoprogramma degli ultimi scampoli della legislatura per quel che riguarda il governo tecnico, ovviamente. Per il Corriere della Sera, intesa Italia-Francia per l'euro, Repubblica, Monti, Hollande, ora più lavoro. La Stampa, caos primarie nel PD, cresce l'onda anti-Renzi. Per il Giornale, oddio, ritorna Prodi, l'ipotesi del Quirinale. Il Messaggero, 3 tappe per salvare l'euro, mentre la battaglia delle primarie è il titolo di apertura dell'Unità. Libero invece, il fisco va cambiato, con una lettera di Attilio Befera. Il Manifesto, lontani dal paradiso, è il dramma del lavoro per il manifesto degli operai lavoratori dell'Alcoa, con il ministro Passera che ha detto è difficilissimo un salvataggio. Il Fatto Quotidiano invece insiste sulla questione della trattativa Stato-mafia, Napolitano contro i PM, ecco le carte. Per la prima volta Il Fatto pubblica tutti gli atti del conflitto di attribuzione scatenato dal Quirinale davanti alla Consulta. Questo in apertura del Fatto Quotidiano, anche se io devo dire che la notizia, poi la leggeremo più avanti, ma la notizia sicuramente politica che rischia di creare vari problemi viene pubblicata in prima pagina del Corriere della Sera e all'interno invece sulla Stampa. E la notizia in prima pagina del Corriere è questa: i verbali di Gotti tedeschi, Orsi mi parlò di consulenze alla moglie di Grilli. Ora bisogna spiegare perché ci sono tanti nomi. Gotti tedeschi è l'ex presidente dello IOR, l'istituto, la banca, il Vaticano, e Orsi, l'amministratore delegato di Finmeccanica, mi parlò di consulenze appunto alla moglie del ministro dell'economia Grilli. Questo nell'interrogatorio del banchiere, e questa sicuramente è una notizia che rischia di essere problematica, se poi confermata sicuramente vanno fatti tutti gli accertamenti del caso per il governo Monti, in questo caso per il ministro dell'economia Grilli. Ma andiamo con ordine, prima vi voglio parlare qualche notizia dal mondo, se volete, della casta, ormai abbastanza risaputo, da ieri la notizia è diventata ufficiale: Nicole Minetti ha deciso che non si dimette più dalla regione Lombardia. E domani Minetti torna in regione, non lascio perché ammiro Silvio Berlusconi, così a pagina 10 del Corriere della Sera. La Minetti non si dimette, resto per le idee di Silvio, così invece a pagina 12 di Repubblica, ma un po' tutti i giornali propongono un articolo sul caso Minetti. Andrea Senesi sul Corriere della Sera: non lo stipendio da consigliere regionale, neppure il vitalizio, il traguardo di metà legislatura che scatterebbe a fine ottobre porterebbe in dote quasi 2.000 euro a partire dal 60° anno d'età. Nicole Minetti non lascia il Pirellone nonostante le insistenze al del segretario nazionale del suo partito Alfano e di quello regionale Mario Mantovani. Non si dimette l'ex igienista dentale del San Raffaele, catapultata 2 anni fa da Silvio Berlusconi nel listino bloccato di Roberto Formigoni. Questo per una sola ragione: l'ammirazione per le idee di libertà di Silvio Berlusconi. Così ha dichiarato al settimanale Diva e Donna, che ne raccoglie il pensiero. Dopo l'estate ho scelto di restare, dice la Minetti, per gli stessi motivi che mi hanno fatto avvicinare alla politica. Gli ostacoli mi motivano a essere più forte e tenace, quindi per ora non mollo. E il Corriere della Sera fa sapere peraltro che l'attività di Nicole Minetti in regione è stata abbastanza scarsa, fa parte tra l'altro della Commissione Sanità, della Commissione Cultura. È stata assente 11 volte su 17 sedute nella Commissione Sanità, 7 volte su 16 nella Commissione Cultura. In aula ha chiesto invece 11 congedi, secondo solo a Formigoni, che ne ha collezionati 17, tutti però per impegni istituzionali. In tanti anni è stata relatrice solo del piano triennale per la prevenzione del randagismo e il controllo demografico della popolazione animale. Ovviamente potete immaginare le repliche piccate dell'opposizione a dire: è uno scandalo, aspetta il vitalizio e via così. Certo, lei stessa aveva dichiarato: di sicuro mi dimetterò prima di ottenere il vitalizio che scatta a metà legislatura, cioè a ottobre. Ha cambiato idea, insomma, può capitare d'estate. ha cambiato idea. Succede a tutti noi. Per quello che riguarda sempre il mondo della casta, dal secolo XIX a pagina 4, oggi, cari ascoltatori, che magari siete da tanto tempo, da tanti giorni rientrati, magari solo da lunedì, magari da una settimana, magari da due settimane, magari non avete neanche fatto le ferie, oggi finiscono le ferie anche per la Camera e domani per il Senato. Oggi riapre la Camera dei Deputati, mercoledì 5 settembre, domani, giovedì 6 settembre, riapre il Senato della Repubblica Italiana. Beh, il secolo XIX, pagina 4, è un po' impietoso nell'andare a spulciare gli atti della prima seduta della Camera che si svolgerà oggi. C'è la crisi, ma la Camera parla di Mongolia. Ecco, questo è il titolo che già fa capire. Vittorio De Benedictis, il mese di ferie è filato via liscio, peccato solo per quell'allerta dei primi di agosto, dei presidenti Fini e Schifani sulla reperibilità di deputati e senatori, se lo spread sale vi richiamiamo a lavorare. Santo spread è rimasto lì, ma che incubo quella spada di Damocle sulla reperibilità, una macchia psicologica sul riposo dei parlamentari, ma vabbè, oggi terminate le vacanze, l'aula della Camera riapre col botto, domani tocca al Senato. A Montecitorio si riapre alle 15 di oggi, di mattina no, perché altrimenti si sarebbero costretti i parlamentari pendolari a muoversi la sera prima. Dunque, un'oretta per discutere le interrogazioni a risposta immediata, ma alle 16 finalmente entra nel vivo il dibattito con una sfilza di disegni di legge. Si avvicina l'autunno caldo, la disoccupazione a livello da paura, i sindacati, gli scioperi, lo spread, la crescita, la decrescita. No, la Camera oggi si occupa di questo. Al punto 2 dell'ordine del giorno c'è la ratifica ed esecuzione dell'accordo di coproduzione cinematografica con la Cina. Di seguito urge approvare l'accordo preso dall'Unione Europea con la Corea. Quindi si passa alla convenzione col governo della Mongolia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Atto di fondamentale rilievo e urgenza, fa sapere De Benedictis, ma non è ironico, è il fine quello di evitare l'evasione. Poi un'altra ratifica in lista d'attesa è il memorandum del settore difesa tra il governo italiano e quello pakistano. Al punto 3, infine, si discute la mozione in materia di gestione del servizio pubblico di navigazione sui laghi prealpini. Ecco, con questa ironia, tutta roba impellente, commenta il secolo XIX. Questo è l'ordine del giorno della prima seduta della Camera dei Deputati alle 15 di oggi pomeriggio. Va bene, ci fermiamo 4 minuti e poi ripartiamo dalle notizie economiche e politiche che trovate sui giornali. Le 7:34 minuti, allora continuiamo la lettura dei giornali. Se volete, se siete appassionati, ovviamente seguire passo passo quelle che sono le situazioni economiche internazionali per il salvataggio dell'euro, beh, molti giornali oggi aprono sul bilaterale che c'è stato ieri tra Monti e Hollande, dunque Italia e Francia, appunto, per cercare di puntellare il rafforzamento della zona euro e cercare dunque interessi comuni, come racconta Lina Palmerini a pagina 5 del Sole 24 Ore nel racconto sotto il titolo Tre tappe per salvare l'euro. Quello di ieri si poteva chiamare vertice, almeno secondo il vocabolario di Mario Monti, scrive così Lina Palmerini. Mario Monti, che ai giornalisti rimprovera spesso un'eccessiva facilità nell'uso della parola vertici, visto che spesso finiscono senza dare risultati. E ieri si sono puntellate le tappe per il rafforzamento dell'euro. Il presidente Hollande e io, ha detto Monti, veglieremo affinché le decisioni dell'ultimo vertice europeo per combattere lo spread siano completamente realizzate. Per la verità hanno detto anche una cosa Hollande e Monti che farà contenti molti in Italia, farà scontenti altri, cioè la TAV. Sono tornati sulla TAV. La TAV hanno confermato per l'ennesima volta, per la verità, Italia e Francia, è un'opera fondamentale e va fatta e verrà realizzata. Anche il Corriere della Sera, pagina 3, mette quindi come notizia più importante questo vertice che c'è stato. Giorni di continui incontri bilaterali, racconta Stefano Montefiori. Sia Hollande che Monti hanno spiegato che le riunioni ravvicinate sono indispensabili per costruire il consenso in vista di vertici più affollati e complessi come il prossimo Consiglio europeo del 18 e 19 ottobre. Visto che Hollande e Monti, racconta il Corriere della Sera, si pongono ormai come i guardiani dello scudo antispread e considerano la loro relazione speciale come il motore dell'uscita dalla crisi. Parigi e Roma si sentono custodi, insomma, del percorso faticosamente individuato il 29 giugno a Bruxelles. Mi trovo a Roma per la terza volta da quando sono presidente, ha fatto ricordare il presidente francese, aggiungendo che l'intesa con il premier italiano Monti è totale. Dunque questo asse Italia-Francia che scrive il Corriere si sentono in questo momento i guardiani dello scudo antispread, di quello che è stata trovata la formula all'ultimo Consiglio europeo. Oggi invece c'è anche il Consiglio dei Ministri. Tra l'altro il Sole 24 Ore mette in prima pagina il cronoprogramma che verrà presentato oggi in Consiglio dei Ministri. D'altronde la legislatura è agli sgoccioli ed ecco allora tutte le misure, le trovate a pagina 2 e 3, che in 4 mesi necessitano, con una tabella di marcia ben precisa ministero per ministero, necessitano di essere in qualche modo confermate: il decreto Salva Italia, quello Cresci Italia, i termini della semplificazione fiscale, in materia di lavoro, la spending review, lo sviluppo. C'è molto da fare, c'è un cronoprogramma molto molto serrato. Certo, nel Consiglio dei Ministri mettetevi l'anima in pace per chi, rallegratevi se eravate contro questa tassa, o mettetevi l'anima in pace se invece eravate a favore di questa tassa. La tassa sulle bibite è scomparsa, ne abbiamo parlato tutti, è stata prima rinviata di una settimana, è ormai quasi certo, le sorprese sono sempre dietro l'angolo, che nel decreto sanità previsto dal ministero del ministro Balduzzi è stato un po' stralciato di qui, sforbiciato di là. Questa tassa sulle bibite pare proprio che non s'abbia da fare e non verrà messa. Bibite, rispunta la tassa dimezzata. Così titola in maniera un po' arzigogolata il Corriere della Sera. Il Sole 24 Ore invece è dimezzato il decretone sulla sanità, ma non c'è la tassa sulle bibite. Raccontano per esempio Margherita De Bacche e Lorenzo Salvia sul Corriere della Sera: non ci sono più i limiti di distanza per le slot machine dalle scuole e dagli ospedali, quindi salta anche questo, i 500 metri per mettere una slot machine da scuole e ospedali. Ci saranno però divieti molto severi sulle pubblicità del gioco d'azzardo. Ecco, il nuovo fronte pare questo, visto che Balduzzi non ha incassato il sì alla tassa sulle bibite, il sì ai limiti di 500 metri delle slot machine di distanza da scuole e ospedali, però ha detto: allora mi concentro su una norma più stringente per vietare al massimo le pubblicità su TV, radio, sui mezzi di comunicazione del gioco d'azzardo legalizzato. Cancellata però, scrive il Corriere, la tassa sulle bibite gassate, anche se il ministro della salute Balduzzi insiste, potrebbe riproporla all'ultimo momento, magari con un prelievo dimezzato. Dunque quella che lui stesso come ministro aveva detto non è la linea del Piave, però pare proprio una questione di principio sulla quale si vorrà battere anche in Consiglio dei Ministri, che credo sia oggi pomeriggio, fino all'ultimo. Sta di fatto che non c'è questo. Come attenzione, viene lanciato un allarme che ieri era sul quotidiano Milano Finanze, oggi viene ripreso da Repubblica e da Libero. Ricordate le tante lunghe, annose polemiche mai risolte sulla questione del pagamento dell'IMU per alcuni immobili, quelli usati a scopi anche commerciali da parte della Chiesa? E beh, se vi ricordate tutta questa vicenda che ha fatto molto arrabbiare anche molti italiani, una battaglia per esempio di alcuni partiti politici radicali, la portano avanti da anno, cioè far pagare anche la Chiesa l'IMU per tutti quegli immobili che dalla Chiesa sono utilizzati anche a scopo commerciale. Ebbene, il governo Monti aveva fatto un decreto che prevedeva un monitoraggio di tutti i beni della Chiesa per vedere quelli utilizzati a scopo anche commerciale, anche parzialmente commerciale, e che magari ora sono esenti dall'IMU, farli rientrare, insomma tutto un percorso molto complesso. L'allarme però è questo: il decreto attuativo non c'è, a rischio l'estensione dell'IMU agli immobili della Chiesa. Così titola Repubblica, che lo mette anche in prima pagina, ma anche Libero. Il governo non ha i dati, salta l'IMU alla Chiesa. Su Repubblica Barbara Ardu e Valentina Conte raccontano: doveva essere una svolta storica per ragioni di equità, ma anche per evitare una procedura di infrazione dell'Unione Europea per aiuti di Stato. Eppure la tanto invocata estensione dell'IMU alla Chiesa rischia di trasformarsi in un clamoroso flop. Il decreto del Ministero dell'Economia, atteso per fine maggio, ancora non esiste. E senza, dal 1 gennaio 2013 la Chiesa continuerà a non pagare l'IMU. Così questo vale anche per partiti, sindacati, fondazioni, associazioni. Una beffa. L'imbarazzo in via 20 settembre, cioè Ministero dell'Economia, scrive Repubblica, è palpabile. Nessuna proroga all'imposta, il decreto arriverà a breve, poi dovrà passare all'esame del Consiglio di Stato, ma certo c'è il rischio che i tempi non ci siano. La materia è complessa, si fa sapere, perché bisogna appunto controllare caso per caso tutti gli immobili in questione. Insomma, si rischia davvero che ci sia una beffa abbastanza clamorosa. Tra l'altro, sul fronte invece delle tasse, oggi registro che Attilio Befera, cioè il capo dell'Agenzia delle Entrate e direttore dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia, prende carta e penna e scrive una lettera che viene pubblicata in prima pagina da Libero, perché Libero ha fatto una campagna in questi giorni contro anche l'aggressività di Equitalia. Ancora oggi Maurizio Belpietro, il direttore di Libero, invita a un trattamento umano Equitalia, scrivendo: per riscuotere i tributi non servono i blitz, non servono le ganasce. E allora Attilio Befera scrive in prima pagina pubblicata: il fisco va cambiato, questo è il titolo di apertura di Libero, ed è un virgolettato proprio del presidente di Equitalia, che scrive: caro direttore, ho letto con profondo interesse la lettera che ha voluto indirizzarmi attraverso le pagine di Libero. Le sue parole mi offrono l'opportunità di ricordare che il nostro paese è stato afflitto per anni da una scarsa cultura fiscale. Troppi cittadini hanno disatteso il patto con lo Stato, pagando assai meno di quanto avrebbero dovuto, a scapito dei contribuenti onesti e delle imprese sane, in assenza di una condanna forte da parte della società. Ormai da qualche anno però è cresciuta la consapevolezza che solo un pieno rispetto delle regole, anche fiscali, possa riportare il paese sulla giusta strada. Una parte di questo difficile compito è affidato all'Agenzia delle Entrate, che lavora ogni giorno per garantire la legalità fiscale, un'applicazione equa e intelligente delle norme tributarie. Sarebbe miope, scrive Befera, da parte mia, pensare però che i contribuenti possano cambiare se non è prima l'amministrazione finanziaria a farlo. È per questo che da tempo ho invitato i funzionari dell'Agenzia delle Entrate e Equitalia, che svolgono con serietà e dedizione il proprio lavoro, ad agire in modo di guadagnare sempre più il rispetto e la fiducia dei cittadini attraverso la correttezza, l'equilibrio, la trasparenza e la ragionevolezza dei comportamenti. Sarebbe d'altro canto ugualmente miope pensare di cambiare la cultura fiscale del nostro paese senza mutare un atteggiamento diffuso che vede l'amministrazione finanziaria oggetto di continui attacchi volti a minare agli occhi dell'opinione pubblica la legittimità del suo operato. Devo tuttavia essere franco, scrive ancora Befera, finché il sistema fiscale italiano sarà regolato da un intricato insieme di norme complesse, sarà impossibile dar vita a modelli di dichiarazione veramente semplici, adempienti realmente alla portata di tutti, base e presupposto di un dialogo meno complicato e più sereno con l'amministrazione finanziaria. Poi la lettera prosegue, però insomma un Befera che dice: è vero, va cambiata certo l'Agenzia delle Entrate, invito tutti i dipendenti a una maggiore serenità anche con il cittadino. D'altra parte però quello che ribadisce è l'impunità che per tanti anni è stata garantita agli evasori fiscali. Ma io voglio arrivare alla notizia sicuramente del giorno dal punto di vista politico, perché rischia di creare grattacapi. Sicuramente la notizia sbattuta così in prima pagina del Corriere e invece all'interno sulla Stampa è una notizia che fa scalpore. Ripartiremo da questo dopo il traffico. Un verbale di interrogatorio a Ettore Gotti Tedeschi, ex presidente dello IOR, l'Istituto per le Opere di Religione del Vaticano, che in un verbale dice: l'amministratore delegato di Finmeccanica Orsi mi disse consulenze false da parte di Finmeccanica alla moglie, per la verità la ex moglie, del ministro all'economia Vittorio Grilli. Da qui ripartiamo dopo il traffico. Eccola qua allora la notizia in prima pagina del Corriere. I verbali di Gotti tedeschi, Orsi mi parlò di consulenze alla moglie di Grilli. La notizia è pubblicata e scritta da Fiorenza Sarzanini. C'è anche su La Stampa, pagina 18, Guido Ruotolo, false consulenze alla moglie di Grilli. Leggo dall'articolo di Fiorenza Sarzanini sul Corriere, il suo ruolo nello IOR, lo scontro con la segreteria di Stato Vaticana sulla normativa antiriciclaggio, le paure per la propria incolumità, ma soprattutto i suoi rapporti di amicizia e di affari con l'amministratore delegato di Finmeccanica Orsi, che gli confidò di avere affidato consulenze false alla moglie di Vittorio Grilli, l'attuale ministro dell'economia, aver così risolto alcuni problemi della signora. Sono le clamorose rivelazioni contenute nei verbali del banchiere Ettore Gotti tedeschi che confermano l'ampia collaborazione dell'ex presidente dello IOR con i magistrati di Roma e Napoli e svelano quanto siano nuovi i filoni d'inchiesta aperti dopo le sue dichiarazioni. E beh, poi ci sono stralci appunto degli interrogatori, la parte che più riguarda un membro importante, cioè il ministro dell'economia Vittorio Grilli, che viene citato, è quando Fiorenza Sarzanini racconta a Gotti tedeschi viene mostrata in uno degli interrogatori la trascrizione di una conversazione intercettata il 23 maggio scorso mentre il banchiere è a cena in un ristorante a Roma con Orsi, l'amministratore delegato di Finmeccanica. I due parlano del ministro dell'economia Grilli e ai magistrati che chiedono chiarimenti Gotti spiega così: prendo atto del tenore della conversazione, neppure ricordavo la vicenda inerente alla moglie di Grilli. In ogni caso è Orsi che parla e mi racconta della moglie di Grilli di cui non sapevo nulla. Ora che ho letto la trascrizione mi ricordo e confermo che Orsi mi disse di aver risolto e messo a posto alcuni problemi che aveva la moglie di Grilli. Probabilmente, scrive qui Fiorenza Sarzanini, si riferisce alla ex moglie, attraverso l'affidamento da parte di Finmeccanica di consulenze false. Su questo, scrive Fiorenza Sarzanini, devono ora essere svolti ulteriori accertamenti per scoprire a che titolo siano stati firmati questi contratti fittizi e soprattutto a quanto ammonti l'entità di queste consulenze. Poi Gotti tedeschi parla, come racconta anche Guido Ruotolo sulla Stampa, del timore per la sua propria incolumità. In una conversazione con l'ex presidente della Compagnia di San Paolo Angelo Benessia dico che se avessi raccontato le ragioni del defenestramento dallo IOR alcuni giudici salterebbero dalla sedia, faccio riferimento a quanto ho raccontato a Roma. E racconta anche Gotti tedeschi di molti nemici in Vaticano, soprattutto indica ai magistrati che lo interrogano di guardare all'interno della segreteria di Stato in Vaticano per trovare i nemici e i motivi del suo defenestramento dallo IOR. Beh, certo, questo che fa anche titolo sulla Stampa, false consulenze alla moglie di Grilli, che poi si scopre dovrebbe essere la ex moglie di Grilli, è un qualcosa che sicuramente oggi terrà banco a livello politico, perché si imporrà un chiarimento su questo da parte del ministro. Per il resto la politica si interroga su alcune cose. Beh, prima fra tutti le primarie. C'è il dilemma primarie all'interno del PD, cioè il partito che per primo ha sdoganato le primarie come atto di democrazia scegliendo i candidati, ora si interroga. Davvero queste primarie servono? Perché il timore è, o meglio il tentativo è disinnescare Matteo Renzi, che vuole fare le primarie. Fatevi da parte o saremo travolti nel PD la battaglia tra generazioni. Questo è il titolo di Repubblica col presidente del PD Rosi Bindi che si appella a Bersani e dice: devi intervenire tu, serve rispetto. Insomma, non piace questa troppa energia sprigionata da Matteo Renzi, che ogni giorno ribadisce si facciano da parte quelli che fanno politica da 25 o 30 anni, tanto che Jacopo Iacoboni sulla Stampa a pagina 11 racconta: ormai la svolta sinistra è l'antirenzismo, arriva l'antirenzismo, l'antiberlusconismo è stato superato all'interno, ormai è dall'antiberlusconismo all'antirenzismo. Si è mai visto a memoria recente un concentrato di demonizzazioni, offese, sufficienze, paternalismi, sopracciglia alzate pari a quelli toccati al sindaco di Firenze in questi mesi e via via sempre più in queste ore? Asino, berlusconiano, inadatto a governare, giovanotto, jukebox della banalità, populista. Manca solo che passi una considerazione fisiche o razziali e saremmo a posto. Se sei a corto di nemici, può sempre sollevarti il nemico. Silvio era ideale, accontentiamoci di Matteo, che pure ha poco a che fare col cavaliere. Insomma, ormai Matteo Renzi sembra diventato almeno la preoccupazione maggiore all'interno del Partito Democratico per questo suo iperattivismo. Tanto che Iena, Riccardo Barenghi sulla Stampa, nella sua rubrica pagina 3 oggi, dal titolo almeno, è sferzante così: per candidarsi alle primarie del PD bisognerebbe almeno superare il test di psichiatria. E l'altro tema politico che tratteremo noi alle 8.30 è quello di Nichi Vendola, che ha lanciato questa patata bollente davanti tra l'altro a Rosy Bindi, cattolica del Partito Democratico, una di quelle che insomma ha sempre detto no, i matrimoni omosessuali no. E Vendola ha detto davanti a lei: mi voglio sposare col mio compagno. Non l'ha detto chiaramente a caso, non può dire una cosa del genere a caso. Vendola e le nozze, sul Corriere della Sera Andrea Garibaldi: mia madre è felice del mio amore. Racconta Nichi Vendola che gli è sgorgata dal cuore lunedì sera a Reggio Emilia, la festa nazionale del PD. A 54 anni mi voglio sposare col mio compagno, è pronunciata davanti a Rosy Bindi. Una frase così equivale a tirare la tovaglia appena apparecchiata, cioè di che cosa Andrea Garibaldi dice? Dell'alleanza PD-SEL, perché chiaramente gettare questo argomento molto scottante all'interno del Partito Democratico, e noi ne parleremo alle 8.30, rischia di far saltare le alleanze. Con noi ci sarà Ivan Scalfarotto del Partito Democratico e ci sarà anche con noi Carlo Casini, eurodeputato dell'UDC, del movimento, fondatore del Movimento per la Vita, che si oppone strenuamente ai matrimoni omosessuali. Nichi si vuole sposare ma il PD non è d'accordo, questo è anche il titolo del Fatto Quotidiano. Oppure sul Quotidiano Nazionale: voglio sposarmi Vendola e D'Alema attacca, perdi consensi così, parli meno di nozze e più di Puglia, sarebbe più popolare. Oh, c'è un'intervista anche a Giulio Tremonti. La trovate intera sul Corriere della Sera, ormai ha deciso, riscende in politica, fonda un nuovo movimento, non è un partito col mio nome. Sentite cosa dice, questo è interessante, chiederò poi anche a Renato Brunetta che ne pensa, sentite cosa dice del PDL, cioè il partito a cui lui ancora appartiene. Che pensa del piano antidebito rilanciato dal PDL, pensato come pilastro della campagna elettorale, si presenta come un piano P come Pinocchio. Il patrimonio deve essere venduto, ma non è possibile farlo nei tempi e nei numeri che sono stati calcolati alla carlona. Così Tremonti parla dei suoi compagni di partito, di fatto. Si insiste che vengano finalizzate le riforme, le quali si sviluppano su un nucleo di decreti di leggi base su 400 decreti attuativi. Ho fatto un calcolo, se lei usa come base la media dei decreti già fatti, il 15% vede che l'intero apparato legislativo nuovo, decreti più leggi attuativi, occupa 180 campi da tennis o 4 campi da calcio. Si semplifica o si complica la possibilità di fare impresa attualmente in Italia? Così Tremonti dice che poi lancia un nuovo movimento, non dentro i partiti vecchi, non con i generali di armata morta, non con le marionette di se stessi. Comincerò con un manifesto, una lista collettiva aperta soprattutto ai giovani. Giulio Tremonti torna in campo. E vabbè, siete contenti? Ora il giornale radio e poi dalle 8:15 i nostri ospiti.